Sì, soddisfatto perché dopo tanti e tanti anni di lavoro, di impegno, siamo riusciti ad avere un nuovo modello contrattuale che non è nuovo solo perché è nuovo perché è la logica nuova che la sorregge questa iniziativa nuova contrattuale, e cioè è la partecipazione, è il meccanismo partecipativo che si staglia molto molto bene e che riuscirà a dare il meglio di sé, gli imprenditori e anche i lavoratori, nel ricercare la migliore qualità e quantità del lavoro e dividersi il guadagno, lavoratori e imprenditori, ridurre al massimo la conflittualità, ricorrere solo quando non se ne può fare a meno. Credo che sia un impegno questo che serve proprio quando non è più l'economia di carta, dei soldi che fanno altri soldi, ma sono i beni che sappiamo costruire, alla base appunto della nuova economia che significa anche nuova democrazia. Quindi per responsabilità, per serietà, per l'interesse generale e in particolare dei lavoratori che dovranno farsi difendere il posto di lavoro, il loro reddito, ma anche la loro dignità. Abbiamo fatto questo accordo, che ripeto è un accordo storico. Lo voglio ricordare a scanso di equivoci, sono 15 anni che il sindacato intero non faceva un accordo interconfederale. Dopo 15 anni di astenia, finalmente si fa un accordo, solamente perché abbiamo voluto aspettare ogni volta, aspettare, e non si può aspettare per 3 lustri e oltre mentre c'è una crisi così grave che ha bisogno che i lavoratori e i loro sindacati, si diano una strategia volta alla qualità e alla quantità del prodotto, soprattutto quando, insisto, la nuova economia dovrà fondarsi non sulla finanza, ma sulle cose che sappiamo produrre. Quindi l'uomo, il lavoratore, ridiventa centrale, il lavoro ridiventa centrale, in un lavoro che non è l'occasione solo per gli scontri, invece deve essere l'occasione per l'incontro.